perché abbiamo sentito la necessità di convocare queste due assemblee. Il tema è quello delle assunzioni, perché abbiamo avuto lunghi anni di blocco delle assunzioni, poi c'è stata un'inversione di tendenza l'anno scorso che ha visto il Comune di Bologna assumere oltre 400 lavoratrici e lavoratori, ma in questo momento ci troviamo in una condizione in cui il fabbisogno del personale è alto, perché i progetti che questo mandato ha sono molteplici e sono anche complessi, ma in realtà la possibilità di assumere è veramente ridotta ai minimi termini. Il problema delle assunzioni è trasversale a tutti i settori del Comune e quindi la spinta che noi chiediamo da parte dell'amministrazione va nella direzione di sanare questa carenza di personale. Poi noi sappiamo che ci sono dei vincoli nazionali, ci sono delle norme nazionali che limitano le facoltà assunzionali degli enti. Ecco perché gli enti sono in grande sofferenza. Questo riguarda il Comune di Bologna, sì, ma riguarda gli enti locali, i comuni che prestano i servizi ai cittadini. Il timore nostro è proprio legato alla tenuta dei servizi. Voi vi definite anche contraria a eventuali esternalizzazioni dei servizi, giusto? Assolutamente. Noi vogliamo i servizi unici, universali, pubblici, assolutamente, per cui la qualità del servizio per noi dipende anche da questo. Quindi noi lotteremo sempre rispetto a quella che è una possibile esternalizzazione, che far entrare i privati nella pubblica amministrazione, ricorrere allo straordinario come elemento strutturale e non eccezionale al lavoro dei dipendenti, perché ricordiamoci che abbiamo dei servizi come gli assistenti sociali, ad esempio, come la polizia locale, ma anche i servizi 06 che hanno un'utenza delicata, un'utenza fragile, complessa, per cui lavorare sullo straordinario vuol dire fare dei doppi turni, a lungo andare porta al burnout al lavoratore e alla lavoratrice. Vuoi dirci come volete procedere nel prossimo futuro? Ieri abbiamo fatto un'assemblea pubblica perché volevamo rivolgerci anche ai cittadini bolognesi, perché la tenuta dei servizi riguarda anche e soprattutto i cittadini della nostra città, considerando che Bologna è sempre stata un fiore d'occhiello a livello nazionale rispetto alla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza e quindi i bolognesi sono abituati ad una qualità dei servizi di livello alto e noi quella vogliamo mantenere. Siamo stati perciò ricevuti da una delegazione di consiglieri del Comune di Bologna perché abbiamo interrotto i lavori di consiglio, siamo stati ricevuti dall'assessore, da un assessore della Giunta, l'assessore Bugani, al quale abbiamo chiesto delle risposte concrete. Ci sono state fatte delle promesse rispetto a quelle che saranno i prossimi tavoli, le prossime interlocuzioni con l'amministrazione tese a risolvere questa situazione, pur sapendo che il problema parte da quelle normative che dicevo prima a livello nazionale. Quindi il nostro invito è stato quello di intervenire sull'abrogazione di quelle norme che mettono in ginocchio i comuni.